Hola. Attenzione, binario 10, Greco. La stazione, sì. Cosa? La stazione, sì. Perché? Binario. Io? Una cosa. Questa è una stazione. Gente che va, gente che viene. Sentimi un attimino, ma hai notato che sul 45 non c'è più nessuno? Sì, perché credo che io non so, non so ne sta accanto a me. Una no, propagazione da paura nel periodo scorso, ma da paura, stamattina soprattutto adesso la stazione di canale, nessuno. Tranne qualche camionista che lo usa proprio, lo sente perché il preparatore, non c'è neanche sono continentale, non lo sento. Infatti continua a sostenere che sta succedendo qualcosa di strano, perché non esiste che la propagazione posti così da una stagione all'altra, soprattutto che un giorno prendi la Sicilia, il giorno dopo prendi i russi, poi subito dopo i tedeschi, ed è sta, cioè di tre mesi si sposta. E chi lo sa cosa fanno con i satelliti, queste cose qua, poi capirete che ci capura che cosa. No, se ce ne sta già scendendo abbastanza, queste cecchini che secondo me servono a quello. Sì, ma dico qualcosa di grosso, qualche pezzo di damicella, qualche cosa del genere. Hai visto a proposito l'incidente di Simoncini? Madonna, cosa brutta. Già l'ho visto Pomarancio. E vabbè, loro lo sanno che in effetti rischiano sempre la morte con quello sportello. Pensate che sono a rischio, però mi spiace sempre. Stai scomparendo piano piano, vuoi dire? Perché mi stavo parlando. Ma ascolta, ho altre cacca come ecco. Negativo, il tuo cuore è pesuto. Prova. Non mi ascolto alle cuffie, me lo dai giusto. Mi spassa troppo, non si capisce, se parli velocemente è proprio che si sente ogni. Ma lascia, perché la regolatura gliel'ho fatta, si sentiva un goccino di eco, proprio come di Emilia mi sembra che sia un po' più pulito, poi magari questo qua è dell'apparato, ma comunque sai che cosa? Che quando sei abituato a sentire una persona con una certa modulazione ti fa strano sentirla con un'altra, anche perché la tua è abbastanza caratteristica, quindi. Ma insomma, le mani molli ci avete in questo periodo. Perché? Ovvio lo stesso, ti cade il microfono e si è spaccato quello bello che aveva detto, lo stava dicendo, perché c'era quella modulazione strana, cioè si è spaccata la capsula interna. Ma se lo stesso ti cade, te lo fai a 100 pezzi. No, non è questione di mani molli, è questione che la coppa delle donne, che io volevo mettere all'interno del portamicrofono dove poterla pronunciare. Che cosa è successo? Che mi sono addormentata, mi si è fatta. Invece prima lo appoggiavo quando vedevo che mi stava addormentando, appoggiavo pure il portamicrofono e qui invece non vuole che si dormiva, perché qua perché male. Dice non lo buttare, lo appoggio e basta, invece appoggiavano solo con i movimenti del pugno. Per pulirlo è fatto, si fa. Ma vedi, quello lì è l'inconveniente di avere il cavo molle, perché se avessi avuto il cavo un po' più rigido magari non avrebbe toccato terra. Ma il rapporto fra tua moglie e il baracchino qual è? Vero. Non hai mai provato a farglielo provare, nel senso a farlo entrare in vostro? No, non avevo la sapere. Lo odio. Cioè che non abbassano. Benissimo, salutoni Antonio. Io proprio al telefono. Ciao. Ma possibile? Ho messo in questo apparecchio un microfono normale, sto usando l'eco dell'apparecchio, ma non va, non mi piace per quello microfonico. Ti sento, infatti l'eco mi sembra un po' più intenso del normale, quindi è quello perché hai cambiato il microfono. E com'è che ti è caduto? Sai cosa? Che ho fatto il mobile nuovo, sono accesa a grotto. L'altro mobile c'è quel porta microfono, siccome io mi accorgevo che sta operando addormentato, l'appoggiavo, porta microfono e via, e poi mi è addormentato. Questa volta non è andata così perché mi è arrivato il mobile nuovo, mia moglie non mi ha fatto attaccare il porta microfono perché c'è che l'ho rovinato. E allora niente, mi è caduto il microfono, mi sono addormentato, mi è caduto la mano, allora si è spaccata la base e adesso mi è arrivato un altro uguale, me l'ha arrivato anche mio grande insieme alla roba sua e mi arriverà per i fratelli. Ho capito. Ti sei addormentato. Beh, a me mi cucina anche il sonno per stare a guardare. Mi rilassa talmente tanto che guarda che è una cosa pazzesca. È vero, no? Beh, è vero, è rilassante. Infatti è una cosa, cioè la chiacchierata così è una cosa piacevole che ti permette di dimenticare a fine giornata un pochettino tutto quello che c'è stato nella giornata, le cose belle e le cose brutte. Ed è un bel, è un analgesico per il corpo. E allora, fa bene, sempre che ti facciamo incantare, allora è diverso, ma quando stai tranquillo, fai delle discussioni tranquille con persone tranquille, è piacevole, poi tante volte mi ritrovo con la stanchezza addosso, mi addormento tutta, ma non accorgo. Ma che ora li stai facendo? Stai entrando presto la mattina? No, tra le 8:30, 1:30, poi 5:30, 7:30. Ho capito. Fino all'1:30. Capa. Ho capito. 7 ore precise. Al dì. E il sabato? Il sabato lavoro tutto il giorno. Non lavoro di sera. Ho capito. C'è stato un fischio avanti. Buonasera signori, salutoli a tutti, gli amici del canale 10, perché si possono considerare solo amici. E qui la stazione di Amicato 2 che mi super cordializza da quel piccolo paesello del QDH2, che è McEwen, forno della Sassierra, che mette un cambio e viene avanti con Foro Minero, anche ancora. Rientrato. Ciao Antonio, ben sentito. È entrato l'amico Ramuros in questo momento in compagnia mia, Salvatore, e con Gianni Doppio Room. Ti rilancio Anto, così saluti il nostro amico e poi fai girare per Gianni. Fa ben sentito Salvatore, ben sentito anche l'amico Gianni Capri 2, che ha detto poco, ha detto solo amici. L'appellativo di amico è una cosa di più secondo me non c'è nella vita, capito? Una volta che definisci una persona un amico è un qualcosa di molto stretto, gli stai dando il cuore. Comunque ero un attimino in quel rix perché stavo facendo una bassa. Avanti Gianni Capri 2, ti rimetto il microfono. Non devo salutare. C'è anche a te Antonio. Che siamo amici perché siamo, diciamo, rimasti in pochi conforma, diciamo, a quando c'era l'era della 27, come abbiamo parlato tantissime volte, diciamo che è come una piccola famiglia, perché non siamo più in tanti, quando sono entrato io, negli anni 70 si girava il canale, erano sempre pieni, proprio c'era la Guyana, tutti breccavano, alcuni che avevano la faccia viva, rimanevano in partenza perché non le ascoltavano, però i canali erano sempre pieni. E Gianni dopo non lo so confermare. Gianni, buonasera, capremente di necessario, vai. Capa Gianni, dai, non male, mi microfono, così la presento anche per salutarla, per darvi un buon sentito, va. Sì, era così in effetti, ma diciamo che io non è che rimpianga molto certi tempi, perché c'erano i canali dove c'è gente in gamma, ma c'è anche i canali, per carità, e meglio niente. Detto questo, comunque preferisco adesso perché c'è più silenzio, io, con le poche persone che ci sono, possono fare un discorso tranquillo, eccetera, eccetera. Non mi interessa avere tanti canali qui di gente che poi, capito, vale poco, allora, per essere così è meglio niente. Avanti, grosso, di nuovo. Ma Roger, con una parola, dice, pochi ma buoni, ma secondo me è così, poi ho comunque notato che i contratti, come vedi, si risolvono pacificamente, anche quando ci sono stati, assolutamente, poi ognuno li risolve a modo suo, ma anch'io ho dei retaggi, dei ricordi del passato dove sicuramente non era piacevole stare in radio, e sicuramente o meglio il QRA familiare un attimino ne subiva le conseguenze nel momento in cui avevi il baracchino a tutto volume. Avanti Salvatore. No, riflettevo su una cosa, Anto. Probabilmente Gianni Doppio Room e Capri 2, perché credo che siano più grandi di me, sicuramente hanno ricordi maggiori, ma io leggevo che probabilmente in termini adrenalinici di trasmissione e di scambio di informazioni, di QSO e di chiacchierate, molto probabilmente erano, penso, più impegnativi i primi anni 70, quando comunque non c'era legislazione e quando si era proprio irregolari. Già, cosa mi dici, Doppio Room? Sì, comincia a fare il lavoro, però non ti pare come adesso, buonasera. Ciao, io dico una cosa, che periodi per me sono stati divisi in tre periodi. C'è stato un periodo dove c'erano tutti i vecchi degli anni 70, eccetera, eccetera, che quello era un bel periodo perché c'erano tutte persone serie, tranquille. Poi c'è stato un altro periodo dove c'era un po' di bairame, dico la verità, e adesso questo qui è il terzo periodo che sta passando, in 26, che ritengo sia abbastanza tranquillo, abbastanza calmo, che si discute tranquillamente e democraticamente, soprattutto quello. Claudio, avanti, c'è Campi 2, Antonio Grodi, io, Salvatore, sono entrato sotto fa una battuta, ciao Salvatore, Gianni Capriu, Antonio Grode, chiunque fosse in ascolto sui canali 10. Preferisco rimanere in QRX, sono vecchi ricordi già passati, quindi tornare al passato per me non fa dialogo, quindi preferisco rimanere in QRX. Vi ascolto volentieri, ma non vi prendo. Gianni Capriu, a te il microfono. Ciao, Claudio. Non anche a te la cosa fare, sì, Claudio, con la cosa che stavo accennando. La frequenza per me, diciamo, può essere come punta letto, perché si è appena iniziata per la prima volta quando ce n'erano corsi di apparati che poi ho iniziato. Piano piano, ad affollarsi i cani erano tutti tre, la cosa c'era con una cosa che la piedi e che sta lì, ma poi sono iniziati a portare avanti, poi sono calutato questo accenno, glielo odiavo, glielo, che la 27 è bella, riprendi anche le cose. Roger, ben sentito Claudio, buon quel ritmo. Gianni, questa è la terza età quindi per te? Sì, più o meno sì, era papà. È così, perché io ho visto tre periodi, diciamo così. C'era il periodo dove c'era l'associazione in via Lutato, che si chiamava Radio Club Nord Sardegna, scrivitelo perché questo tu non lo sa. Avevo conosciuto un lago, ma da dove dovevo spegnere perché c'era giù. Ciao Claudio. grazie. Però là non puoi fare l'acchitto e poi imboscarti. Adesso mi devi raccontare qualche cosa. Una, perché leggevo che addirittura una serie di radio libere, le prime radio libere che poi andarono a trasmettere in FM, erano addirittura state fondate da coloro che erano proprio degli appassionati delle bande cittadine, che poi hanno continuato a coltivare in maniera poi legale questa passione nella trasmissione. Te lo confermo, ma non, ripeto, sono discorsi che a me non interessano più. Io sono entrato nel 1973, ho 4 concessioni rinnovate della 27, dopodiché sono passato al rimattore, quindi sono discorsi che non riesco più a prendere. Mi piace ascoltarvi, ma non, sì, Radio del Golfo è stata fondata praticamente da 3 radioamatori, di cui uno è morto proprio a mattina di ieri, che è Gabriele Gianni, è morto Gabriele Mischi, quello che stavamo dicendo, quello che abbiamo visto nel giornale, dove lui era addetto alle attrezzature, alle apparecchiature tecniche. No, sono morti tutti e 3 purtroppo. Giuseppe Aquila, radioamatore, e Cau, Antonio Cau, che è morto lo stesso. Quindi sono quelli che hanno fondato Radio del Golfo, dove Radio del Golfo è nato dalla prima associazione CB di tutta la Sardegna, del nord Sardegna, praticamente dentro la Sardegna, il nord Sardegna, che era Club Onda del Golfo, Radio Club Onda del Golfo. Da lì, nella stessa sede, nello stesso caseggiato, c'è nata Radio del Golfo, che c'è una vita, io avevo 14 anni. Quindi è proprio vero che con il cavallo, c'è chi va a cavallo, poi è soggetto a cadere. Va bene, ti ascolto, non è un dialogo che mi interessa, senza offesa per nessuno, ma sono vecchi ricordi con la quale io ho attraversato dei bellissimi periodi, ma anche dei brutti, e quindi non mi interessa parlarne. Il passato è passato, come diceva Totò, bisogna guardare il presente. Sono convinto che ci possa essere ancora uno spiraglio un pochino più, come si può dire, di alleati un po' più conformi a quello che è la statistica dei veri modulatori, ma comunque si attenderà il tempo forse migliore di questo. Va bene. Un suggerimento: quando rilancio il microfono, rilancia per Gianni K2 e Gianni Doppio Rum, perché hanno parlato insieme e io ho sentito solo a Gianni K2, perché ce l'ho davanti a me ed è fortissimo. Va bene, di nuovo buonasera a tutti, vi ascolto ma non riprendo, se non chiamato esplicitamente in causa per motivi diversi da questo. A te Gianni Doppio Rum. Break. Allora, facciamo vedere avanti break, quindi avanti. Buonasera, volevo sapere, sono Massimiliano Archimedo, volevo sapere se c'era Salvatore. Ciao caro, sono in azione. Ti puoi portare di là dove eravamo questo pomeriggio un attimino, così non annoiamo nessuno, che ti do un paio di informazioni. Ok, amici, scusate, con permesso ci spostiamo un attimo, facciamo queste greche da un'altra parte, per notte. Penso io, allora sì, in effetti non mi sono reso conto che di Gianni ne abbiamo 2, quindi di conseguenza si è andati un attimino in sovramodulazione. E qua è passato Gianni Doppio Rum. Stavo dicendo, sì, come diceva, in risposta a quello che diceva Salvatore, si è spostato in queste greche, no? Ha fatto un po' il segreto, cioè, vi ha troncato le gambe alle radio locali, alle radio che si nascevano come funghi, ma più che altro dai partiti politici si deve a questo. È stata la legge Mobi del 1990, se non sbaglio, se non erro. Sì, la maggior parte delle radio poi alla fine, ma un po' perché erano gli unici che sapevano destreggiare, nascevano proprio dai CD o comunque dai radioamatori che avevano la passione, anche se è ben diverso fare broadcasting e fare radioamatore, credo, perché non hai certamente una risposta dall'altra parte. Avanti, Gianni Capriduni. Esattamente. Ogni tanto io mi vengono queste fatiche, perché se voglio posso tirarmi una stanza di radio, se capisco, anche di noi modelli, tutto quello che vuole, non lo so, però diciamo, mi lega alla 27 le vecchie cose, mi piace molto il passato, in tante cose, capito? E ogni tanto accedo, anche quando va al computer, non è che vado a cercare lui gli apparati, fa lo stesso. La vecchia correre in sera ce l'ho parecchie ore guardando tutti questi bussi, tutto quello che male, però in questo caso le sue cose che ha fatto in un lavoro passato, forse Claudio che c'è un po' di ragione, c'è un po' di ragione, io sono una persona che vive in auto sola e quindi non è stato dietro nei conti, forse anche per quello, Claudio sono quasi bene, se c'è ragione da prendere, lui invece fa sempre l'unica cosa che c'è in modo a fare. La quinta subito si tiene, l'hai capito, sempre aggiornato, sempre, io mi nascondo forse sui vecchi ricordi, sulle vecchie cose, però non so se è proprio così, quindi non più lungo. Grazie, sei un conservatore. Vabbè, sono passioni. Se non piacciono le vecchie apparecchiature, visto che c'è il freddo, non c'è nessun problema. Ognuno la pensa per lo suo. C'è quello che colleziona francobolli, c'è quello che colleziona baracchini, c'è quello che colleziona anche i tappeti delle bottiglie. Perché no? Ne ho visto tante collezioni strane, ma... anche a me piacciono gli apparecchi un po', ma solo alcuni, non tutti. Prendo io, però vedi la differenza fra il baracchino e il computer, supposto che se ne possa fare, si possano paragonare. Dico, la bellezza del baracchino è innanzitutto che insegna l'educazione, perché si parla uno alla volta, o almeno così si dovrebbe fare, ma a prescindere da quello, al contrario del computer, non ha limiti. Cioè il computer basta che manchi la luce e non vai da nessuna parte, basta che si stacchino dalla cellula, mentre invece il baracchino basta una batteria e lo fai funzionare comunque, e sicuramente accorcia molto di più le distanze di quanto lo può fare il computer. E soprattutto non ti fa sentire neanche la voce di chi hai di fronte, cioè niente, stai guardando su uno schermo, la stessa lettera che ti può battere un uomo te la può dare a battere una donna, è la stessa cosa, infatti molti rimangono fregati, no? Niente di quello che hai detto, ma dove sei sceso? Mi ha lontanato il microfono, se l'ha fatto con l'altro, era lontano, ma non so, era lontano, ma è amplificato, capito? Hai detto, ripeti perché non si è sentito niente. Ma qual è? No, adesso sì, però non si è sentito quello che hai detto prima. Ah, io allora, ho detto che praticamente ognuno ha le sue... di passione, c'è chi colleziona baracchini, c'è chi colleziona tappeti bottiglia, eccetera eccetera, ognuno è libero di fare il suo tipo di collezione, no? E ho aggiunto anche a me piacciono gli apparecchi antichi, però non tutti, mi piacciono molto le stazioni base. Zappa, e quelle sono belle. Quelle sono belle, tanto è vero che ne sto cercando una, le stanno vedendo a poco prezzo in Germania, su eBay tedesco, però loro trasmettono solo in FM. Lo so, ma ci sono dei belli apparati da base che hanno AM, FM, tutto qua, e sono molto belli, tipo anche come i Galaxy. c'è un apparecchio complesso. Un attimino, mi devo assentare un attimino, riprenditi anni capi due, sono un attimo in guerri. No, già io più di tanto, ma capito giusto le cose che hanno caratterizzato, però non so solo sugli apparati, fino a che io sono andato in questa casa che ci sono vissuto l'articolo, sono andato via l'altra casa enorme di 200 metri quadri, qualche 200 metri, e ha fabbricato la mia sorella proprio perché mi volevo isolare, io hai capito già, nel codice vivo, infatti sono una persona che sono sola, che rimango sola, ho fatto quello che ho fatto quando ero nell'arma e voglio essere lasciato in pace, capito? Quindi ho dovuto la casa volentieri, infatti non fai una cosa come sta filmando, mi lasci filmare, ho detto, non mi interessa, perché qui sono vissuto con i genitori e c'ero nel cuore già. E faccio un giorno che vedi, ti faccio vedere la casa che ho ceduto, sono stato dei campamenti, tu dici che sono una scena proprio perché ho preferito questa sempre per le nostalgie. E niente, a noi ci va bene questa, cioè non mi interessa le grandezze, le cose, diciamo, non me ne frega molto, posso comprare quello che voglio, capito? Però mi piace rimanere così, devi ridere quando comincia ad arrivare tutta la macchina, io ho trovato a voi i piedi, non mi interessa, capito, non ci ho mai perso, non mi guadagnato, io sto per il dentro, cioè, ti faccio vedere quello che faccio vedere gli incartamenti del portaio, cosa le ho dato, la gente mi guarda strano, già va bene, ti senti benissimo, poi c'è un risposto con i genitori della casa proprio questa, infatti gli avrà detto bene o male tu hai vita messa a posto, un po' impaurata, e sto benissimo qui, già, a me sta per aprire il microfono. Come fa capire che tu vivi di sentimenti e non di roba materiale, questo mi fa piacere. C'è qualcuno che ha i sentimenti ancora che superano le cose materiali. Perché così, quando muoio lascio tutto qui, hai capito, non me ne frega nulla. Non me ne frega, mi posso divertire quanto è più bello perché in un sacco di settori posso entrare alla grande anche, capito, senza avere il permesso, un sacco di cose, entro alla grande posso fare, però se lo metto un piatto mi conosci bene come sono fatto, hai capito? Tu mi hai detto come siete di più, ma a me sto bene come sono. Sto bene come sono già, però lui che rimane un funzionario, capito, più pesante del cuore, sono contento che sia così, se ne sia, però io non sono così, già, sono queste piccole mie passioni che tu hai detto, non mi interessa assolutamente. Ma hai cambiato il microfono già? Se ho cambiato il microfono, ho fatto qualcosa, ho cambiato che si è rotto e si aspettava che mi avessi dato uguale. Con la riva lo mettiamo. Ma ho fatto abbastanza bene, alla grande, ho colpa che ti sia passato un po', quindi poi domani sono pensato che ti era un bel conto, va benissimo, e adesso ho fatto una buona perfezione, però fatto conto, come ha detto Antonio, non ti ha ascoltato, tutto lì, già, no, niente. Capito io, diciamo, intervengo, anzi mi hanno comprato quegli HF, gli altri ho messi da una parte, ti dico e mi metto a ridere, che il mio figlio tu te ne hai comprati con gli HF, va bene questo, anzi ne metterò uno già a un canale sul canale 10, e basta, abbastanza, basta. E nel resto ti volevo chiedere, la ragazza sta cantando. Sempre, sempre, ora. Cantato anche quest'estate, andate qualche locale, eccetera, eccetera. No, sempre sta pronta. Io sì, sono contento già. Oggi ero ieri un po' triste perché abituato a stare con Claudio, guarda, si diventa anche triste. Io se non per voi perché se devo seguire il moto mondiale, ieri la morte nei Simoncelli, immagino che anche a voi gli abbiamo fatto un effetto. Io guarda, sono oggi come uno che mi ha dato una sussa, guarda, sono proprio demoralizzato per questo ragazzo, guarda, non seguivo mai, non truffato, però mi sento in generale. Mi dispiace perché anche un ragazzo giovane, io non lo conoscevo, ma è un ragazzo giovane, mi dispiace sempre. Avanti, si è fatto, ancora si è addormentato, che è rimasto? Massimiliano, chi è l'altro? Forse abbiamo fatto un passo troppo grosso. Thank you. su qualche cosa che viaggio già da 32 anni, 4 volte al giorno. Per lo stato là, ecco perché lo avevo messo in Italia, capito, la crescita non viene mai, perché c'è sempre dei bambini tra le ruote che non si parla, però se non veniamo male, non si può che arrangia, ma può male. E quindi è come mi devo pensare per Claudio, quasi pulizina, che ha già 17 anni, facciamo anche a 18, se non vuole qualche cosa, diciamo, per cui già mi, per cui ecco, ho fatto 10 giorni di lavoro qui, e capito, il campo, ecco, se tu sai che c'è qualche lira in tasca, così niente, non per, diciamo, che uno dovrebbe fare un lavoro subito per fare, come si chiama, niente, ecco, quando uno esce c'ha 10 lire in tasca, con lui è. Strane, voglio dire, perché poi di giorno anche volete vedere, cioè voglio dire, può capitare, non mi è capitato solo in questi giorni, gli ho spiegato, signora, vuol dire che è il caso, capito? Ho sentito un break, se non sbaglio. Ciucucciu. Tutto bene, in compagnia di mia, di, come avrei sentito, di Ace of Cats. Via, io ho sentito, c'è problema. Il grande fratello ti stai guardando? Che ancora no. Sto solo guardando una specie di affare che vi hai dato, mamma mia. Guarda che caretta, non se ne cava a piedi. Ma ti ripeto, è un apparecchio che non pensare che sia stato io a fare tutto. Io è per cercare di rimediare, ma non sapendolo fare, però è una cosa che sicuramente è stata in una cantina da qualche parte, ha preso un po' di umidità di cosa. Sì, mi passo la presa, non si capisce niente di dove sia, se era 27 dove devo, ecco, la verità. Adesso se mi capita una parecchia uguale, da dove faccio uno e trovo. Ma stavo dicendo, se lo vuole prendere Giuseppe non c'è problema. Poi Giuseppe vuole fare che controlla bene, insomma si la prova una settimana come l'altra volta per quel baracchino che avevo io. Che poi l'ho sostituito a padrone, eccetera, l'ha capito. Quindi l'unica cosa, se capita un altro apparecchio, per dire un baracchino di quelli a poco prezzo, 50 euro, quelli che è, boh, dico di pigliarsela e basta, non posso dire altro. Sì, comunque ho riguardato stasera su quel coso, come si dice, su quella modifica che c'era da fare sull'ANA. L'Alan è l'Alan 100 Plus, dicendo, è il baracchino meno modificabile sulla piazza, soprattutto con il vecchio stampo, nel senso che non ha microcircuiti. E l'unica cosa che si può fare è tagliare quel diodo che ti ho detto, che è il D13, e dopodiché c'è da girare un trimmer per cercare di aumentare la modulazione, però la modifica che ti ho fatto fare era quella. Il problema è che non va bene con quel microfono lì, non si abbina bene, tanto è vero che quello non è il suo microfono. Che bello, logico. Fate il salto nuovo con quel diodo e c'è il nuovo bene, come si deve, ma sto solo a vendere. E si compra uno di quei baracchini che vende Fusaro, dice in più, mi conviene. Ah, ma se tu guardi questo da cui sta trasmettendo io è l'Alan 100 Plus lo stesso, soltanto che gli ho tolto quel diodo lì, non sta uscendo così male di radio, se consideri che l'antenna è messa in terra. Che cosa vuol dire che io? Boh, io baracchini non ne ho da dargli, la verità, Giuseppe. Ne avevo pensato uno, e quindi, cioè uno, più di uno l'ho pensato, la verità, quindi io non so cosa dirti. Purtroppo è così. Stavo dicendo, ma Fabrizio, no, scusa, no, pensavo non arrivassi più, non ti volevo lasciare in parcheggio. Stavo dicendo, ma non hai altri? No, sto parlando con Antonello. Stavo dicendo, Antonello, non hai altri tu apparati, baracchini? No, la verità non ne ho. Se tutti quanti altri, 50 euro, altri di... La verità... Da quando sono riuscito a venderlo 50 euro, perché volevano 40, che 30, capito? E quindi non c'è commercio purtroppo. Poi l'apparecchio gratis, la maggior parte dei CB, devi formulare richiesta fuori, il discorso è quello. Per quella sassa di ricevere su, dopo devo gratis, se è 20 euro è meglio, hai capito? Anche se l'apparecchio per dire è 200 canali. E così la questione. Infatti se lo hai a Milano, lo sai l'imbarcata che ne puoi fare di cose, se ne riempie una macchina. Stavo dicendo però, invece la scarpetta cosa ti sembra? La scarpetta l'ho già controllata e fusa tutta, ha fatto la bobina nuova l'altro giorno, e ci sono tre bruciati, tutti e quattro. Quindi se ascolta per la cosa, siccome c'è una scarpetta quella della tua, come si chiama, quello del monte che abita vicino a Lucca, se è uguale che c'è fila di buoni si può che prendere, se c'è fila di bruciati inutile pigliarla, la verità. No, io mi fido di quello che mi stai dicendo, ma ce li ha tutti e quattro bruciati addirittura. sì, perché quando più importante è la possibilità di la potenza scende, quindi sono i finali bruciati. Più che altro ci sarebbe da utilizzare l'involucro magari. 5x4 20 sono me, caro mio. Sono gli MVFX 4.7, quindi sei costretto a pagare il 52.1, a meno che non fai il contrario, che metti 169 e quindi sono 30 e 60 vado più una fuori di più. Ciao un attimo, aspetta. E non mangi? Oh no, grazie a Dio no ancora, ti mancherebbe. Come si numero che stai dando ancora su? No, allora, il presidente Jackson monta l'MRF 477, e già lo sai che tu, quindi sono 50 euro che costa. Siccome il B156 mi sembra che sono ok, le monta a 4, quindi sono 5, 4, 20, 200 euro. Il reale costa 120, mi sembra coraggio, e come comprare un uovo a un certo punto. Siamo in pratica di aria, c'è Mauro, ti ricordi di finale che non ha fatto Mauro, cosa gli ha fatto? Niente. Niente, non mi ha bruciato fino alla mosca perché l'ho dato io. Esatto. Complimenti. 10 anni ce l'avevo con i miei ragazzi, non ho mai bruciato. Dire le cose che non sono, non dire le cose che non sono, è un'altra cosa. E il 153 non c'entra niente quello che stai dicendo tu. Anche me non l'ho detto, non l'ho detto io. Non è la fesseria. Non dobbiamo dire cagate, figurati. Io? Guarda, ne ho uno qua, ne avevo due di così. Che uno qua, bruciato? Forse questi finali sono buoni. Ascolta. Altro, non voglio passare per imbecille perché non lo so, tu non lo sai. Siamo persone adulte, tu mi hai detto un lineare, il bici è 53, c'è a 4 finali, e sono tutte quattro bruciate. A parte la bobina l'ho cambiata, e lì ci siamo. L'ho acceso, a posto di salire il segnale scende, perché scende, quindi sono i finali bruciati. Quindi se ne è un altro, mi sta anche bene, per dire. Si recupera tra la uno e si mettono all'altro. Però passa per il coglione della verità, non ci sto. Aspetta un attimino, perché molto spesso quando si parla in radio, secondo me si capiscono, capi per la terra, come si può dire. Siccome Claudio gentilmente mi ha omaggiato di un suo come si dice, lineare, che non c'entra niente con quello che ho dato a te, lui ha capito male, quindi stiamo parlando di tutt'altra cosa, Antone, non ti cazzare perché non c'entra niente. No, aspetta, è lui che io l'ho fatto una domanda esplicita, ho detto perché Antonio ha bruciato il lineare a MOSFET che gli ho dato io, l'ho detto sì, ma sta per dire no. Antonio, cazzo ti stai rincoglionendo? Siccome io ad Antonio gli avevo dato a suo tempo il lineare io non uso per la macchina, perché è saturato, e tu usa quello che è MOSFET, che ho detto che per l'altro avevo 7-8 anni, l'avevo comprato un uovo, non l'ho usato pochissimo. E io ti ho fatto la domanda, ti ho detto, perché Antonio ha bruciato il lineare a MOSFET, e ti metto sì, e quindi a MOSFET c'è quello che gli ho dato io, sul coglionito. Aspetta, non sono ricoglionito, se lui ne ha due, non è colpa mia, scusami, a questo punto, se ne ha due, cosa devo dire a te? Un mio ospite ce l'ho qua, a casa, cosa devo dire, gli ha dato tu, non tocca dire, cioè, a me l'ha dato lui, non mi ha detto che l'ha tuo, la verità, se poi ne ha due, non è proprio mio, la verità, mi sbaglio forse, e come vabbè, non mi bucio del tuo, lui dice no, ha bruciato una cosa, è quello, allora c'è il culo di un cotonello, non è l'altro. Non è a MOSFET quello che sei, che c'hai tu, cosa stai dicendo? A monta il 477, sì o no? Aspetta un attimo, il B157 della ZG, che è diverso da quello che mi ha dato Claudio per il 747, quindi non c'entra niente. Senti finale, ma per dire non tu guarda. Io a lui gli ho regalato il suo, non è mio, è il suo. Gli ho regalato un 757, non 747, 757 a MOSFET, grigio. Se poi lui te ne ha dato un altro uguale a quello, non sono problemi miei a riparare. Io ti ho fatto la domanda, da quello là. Scusami, mi metto BC-53 e monta gli MRF-477. Io cosa so se quella è l'ultimato un altro tipo di lineare, me lo spieghi allora? Tanto sono intelligente più di me, più di lui. Se tu mi dai due cose, se tu mi dai una cosa, io posso sapere l'altra, se permetti, monta gli stessi finali uguali, o mi sbaglio forse? Mi monta gli stessi finali, però non sono a MOSFET, non sono a MOSFET, quelle 757 hanno la stessa sigla, ma se guardi non sono uguali. Ma non solo, scusa un attimo, il 757 c'è il relè, questi qua non hanno il relè. Comunque si sono bruciati tutti e due, motivo per il quale Claudio mi ha dato quello lì. Andiamo bene. Ma ti spiego. Perché dire, io ho due 150B, 153, uno ce l'hai tu, l'altro l'avevo staccato, l'avevo tolto perché già mi stava creando problemi, non so perché andava saturato, evidentemente ci stavo entrando con un segnale troppo potente. Allora ultimi inizio alla radio, uno l'avevo già tolto, uno si è bruciato per quello che c'è tu e uno me l'ha regalato Claudio, quello che mi ha regalato Claudio è tonto, è zero. Capace, infatti avevi fatto lo stesso difetto là. Quando c'è il più ingresso, lucida con la bobina che si è bruciata la prima volta, ti ricordo che ti metto, guarda, se c'è la bobina bruciata, sì o no? Ah, ma ti sto dicendo, questi 153 che non hanno relè, tant'è vero che quando tu sei importante non si sente nessun rumore, mentre invece il 757 si sente proprio tic dell'aggancio. Questi qua, tutti e due, perché si sono scaldati, se tu guardi i finali dall'altra parte della piazza, hanno un, non lo vedi perché adesso non c'è, perché ne c'è, hanno un chiodo a germano, comunque ne è sceso sia dall'uno che dall'altro, per come si sono scaldati troppo. Ho capito, comunque, a parte quello c'hai anche fino ai bruciati, che hai provato, che ho fatto la bobina nuova l'altro giorno, e quando attacchi, scende di cosa, non c'è niente da fare, mi ha cambiato quanto per il finale. Siccome non ricordi c'è anche cosa, quello del monte, il barbiere, e c'è il finale di buoni quello, adesso devo chiedere, devo dire 20 euro, se ve lo va, ti riparo il tuo, ti conviene anche, scusa, la verità. Perché il finale sono nuovi, dice che lui, infatti, il mio esce, non c'è altri problemi. Aspetta un attimino, allora io te ne porto un altro che ho sempre un B-153 uguale a quello, uguale, gemello, e sicuramente i finali non sono bruciati, e da dove ne facciamo uno? Lo vuoi tu? Io questo la cosa, non è per questo, ha chiesto l'altro giorno Giuseppe per codignare, voleva 20 euro e era un B-153, ma dove... I finali escono, mi ha detto, eccetera, eccetera, non costa niente. Per 20 euro, ne vale anche la pena. Tanto ogni finale costa 50 euro, già lo sai anche tu, non è che sto dicendo balle, quindi. Al limite se ne fanno tutti e due della BNQ, e che li tieni. Può fare così, oppure si può fare che... a chi serve uno di questi generali? Non lo so, la verità che serve, ecco. Non costa niente, chiedere. Quello che costano. Ma tu me ne fai uscire uno, così che l'altro te lo vende, non c'è problema. No, non mi faccio proprio niente di codignare. Se lo vedi tu li fatti tu, ti avanci, mi paghi la riparazione e ti avanci. Non voglio sapere niente, io solo vengono qua gli avvoltoi e voglio la roba abita gratis, quindi meglio niente. Io ti rifanno il coso, se è meglio che te ne fanno tu è meglio, la verità. Vedi, ti tieni tu e due. E siamo a posto. Poi se uno te lo chiede glielo fai pagare. Perché è nuovo, perché è nuovo. Non è che siamo vecchi, no? Dai, cosa mi conviene raccontare la riparazione? Stavo dicendo, perché io voleva cosa il barbiere l'altro giorno. Siamo andati assieme a Giuseppe, lui c'era al monte, voleva 20 euro per collineare. Non hai capito cosa mi costa la riparazione? Non lo so, i finali costano. Sono quattro finali. Il 477 vengono 5 per 4 20. Vedi tu. Ah, ma io ti ho detto, a te cosa ti devo dare alla fine? A me mi paghi la cena, a me a Claudio, va bene. No, non mi vuoi in mezzo a me, no. Va bene, paghi la cena a me, va bene. Ok, ti fa bene? A McDonald's, sì. Da McDonald's, vieni qua e cazzo, ma no, sei matto, un po' sei. Fai la spesa, sono preoccupato, vieni qua e mangi qua, come si deve, non è che ti pigli tre volte per fare, come hai fatto un'altra volta. Vieni qui e mangi qua, tranquillo, calmo, senza essere agitato. Siamo solo in quattro qua, non di più. Io, Simona, tu e Chiara, basta. No, a questo punto voglio che venga anche Claudio. Non credo proprio. Mi dispiace questa, no? Non la prendo come offesa, però vabbè. No, no, ti ringrazio come ricevuto, ma no. Sono a dieta, guarda. Se no, quando vogliamo bene, non mi vedo già precisato di lineare il problema, però non è che lineare, non era tanto l'ingresso, era che l'antenna non riusciva a dissipare la potenza in uscita, e quindi c'erano troppe stazionarie e me l'avevo bruciato per due motivi. E sono una mezza porcheria, cioè sono il classico lineare della ZG. Tutt'altra cosa, se non sbaglio, è il 757 che è della Lafayette. Non so se è della Milano, ma sono molto bene qui. Ciao, sono tornati. Ciao carissimo. Ciao Antonio, non so chi ci sia in ruota con voi, comunque saluto tutti quanti. Rieccomi qua. Scusate, ma ci siamo dovuti spostare perché avremmo scocciato con i nostri discorsi tutti quanti e vi avremmo fatto addormentare. Ma se avete volante, avete fatto bene a fama, vi stavo ascoltando. Impossibile. La pizza voleva, capito? Sì, c'è qualcuno che chiama. Metto voi, se vuoi ascoltare, smerciare, prendo un testo, attacco di panico. Sono tutta nella mangiare una mela. Chi è che chiama? Sì, ma non è colpa mia, è colpa di Antonello con Antonio che non lasciamo un attimo di bianco. Oh, Salvatò, saluti a tutti a Fabrizio perché non ascolta. Salvatò, conosci il problema che c'ha Fabrizio, sì? Poi ho copiato il suo passaggio, mi ha detto, ho sentito dei filtri ADSL e se non ho capito male sta disturbando linee telefoniche. QSL sta disturbando una vicina, siccome è lo stesso problema, ce l'avevo io quando ero a Pasqua, avevo usato i filtri, quelli che mettono a tampone sulla linea diretta dell'ingresso del telefonico. Ho messo sulle due linee principali di connessione quei due filtri e il problema l'avevo risolto. Pensi che lo possa risolvere anche lui? Una bella domanda, però i filtri ADSL servono semplicemente per permettere di lavorare su un'altra frequenza, sulla frequenza digitale per i computer. Mi sembra un po' strano che possano servire per all'uopo. Non so, sarebbe la prima volta che lo sento, ma non si smette mai di imparare. Chiedo perché, quando io mi sono trasbloccato qua, che è venuto Pisca e mi ha fatto la linea DSL perché io ho l'ingresso da una stanza che non ho fatto, purtroppo in questa stanza non c'è attacco di telefono, quindi sono dovuto entrare dalla stanza da letto e passare col cavo, insomma, dentro una canale che non si vede e portare la linea qua. Il telefono, il portatile in camera da letto, in base in salone. Quando io parlavo, che mia moglie era al telefono, sentiva la mia voce e non c'avevo i filtri. E ho telefonato a Tiscali, mi hanno mandato i due filtri, mi hanno messo uno nel salone in camera da letto. La voce non si è sentita più. Tu pensi che lui possa risolvere ugualmente? No, non credo. Non credo. Non credo. Questa è più comprensibile la tua situazione. Questo è più comprensibile. Si consiglia infatti solitamente comunque per poter utilizzare queste più apparecchiature che tra l'altro poi convogliano in sostanza due servizi nello stesso cavo, ma nel suo penso di escluderlo. Poi un tentativo non costa niente. Non costa niente, però non è un disturbo che hai nella stessa linea dovuto a un'interferenza di un computer o a me sembra un po' strano, però un tentativo lo si può sempre fare, non so se mi copia Fabrizio. Fabri, c'è un po' di via, c'è arrivato il lavoro che deve dare il cambio. Io penso però solo che si possa fare, perché se lui sta disturbando la stessa utenza nella sua palazzina, è fattibile, sai perché? Perché la linea telefonica è una linea unica, poi con i partitori entra negli appartamenti, giusto? condividono, nel senso che scenderanno quelle 5, 6, 8, 10 doppini, scendono tutti nello stesso posto, quindi come minimo il disturbo, se viene convogliato, viene convogliato per tutti, o alla sfiga che viene captato solo da un doppino. Io questo ci ho già parlato con Fabrizio, però il fatto che se possa la notizia che lui disturba avere qualche problema, qualche filo non schermato, qualcosa all'interno dell'appartamento, un partitore che distanza, che praticamente è talmente sensibile, cioè bisogna avere tante cose sotto. Io con su mie telefoniche non è che me ne intendo, però ho visto qualcosa, insomma, così. L'unica soluzione è provare con questi filtri, che poi sono filtri di essere infatti, però vengono anche i filtri bassa banda, quelli sia per linea telefonica che per linea TV, quindi bisogna trovare quella soluzione lì, altrimenti in estremis dovrebbe lui iniziare a tirare sull'antenna, che poi secondo me non ha niente a che fare con l'antenna TV, quindi l'antenna va bene così, per conto mio, perché il cavo telefonico è a scendere, non a salire, quindi non ha nessun significato portare sull'antenna. Se lo provare, bisogna fare prove con questi filtri, altrimenti vedere che telefono usa questa utenza, insomma, capire, sapere, non so. Tecnicamente su queste cose non è che sono molto preparato. Se si parla di altro, vabbè, ma proprio di linea telefonica io non ho mai toccato niente, qua infatti a casa sono sempre venuti quelli di Tiscali, anche la Telecom, allora quando era Telecom, per vedere tutte le prese, se erano in ordine, eccetera, gli ho fatto fare un sopralluogo. E adesso ho chiesto in pratica che devo spostare una presa qua per altre motivazioni e quindi mi faranno un intervento, insomma faranno un intervento a breve, a giorni, e io non tocco niente, furono loro, mettono la presa loro qua con tutti i chip attaccati, dove mi serve per fare altre cose, e quindi ho chiamato loro proprio perché non me ne intendo. Comunque vabbè, per Fabrizio va a suo consiglio, inizia a provare con queste, non vi chiedo queste cose, poi ci sono, ripeto, filtri passabanda sia per cavo TV che per cavo telefonico, quindi se non sono questi filtri ADSL, cercare questi filtri e vedere un po' com'è la situazione, attenuare praticamente l'ingresso in, perché sempre di armonica si tratta. Ascolta, ma questa signora è sotto di lui, proprio sotto di lui, o è in un appartamento che ne so, è un due piani sotto, spostato di una che ne so, di 10 metri? Non so, Salvatore, non lo so, bisogna che parli con lui. Ne parli con lui e senti un po', tu sicuramente sei più preparato di me, io ripeto, di telefono non capisco niente. Non mi ha parlato né di basso né di alto, mi ha detto solo che c'è questa interferenza e siccome lui sta andando ad avere una licenza superiore, tenendo conto che sia fattibile o meno, però lui sempre sta presentando una domanda per l'accesso all'università. cioè, perché è meglio andare a ammazzare una persona. No, ma infatti già, scusate gli amici un attimo, ma visto che è un argomento importante, mi stavo infatti preoccupando però proprio per questa cosa, perché cioè non vorrei che casualmente la signora sentisse anche a lui, ma che casomai nella zona lui stia disturbando qualche altro utenza in più. Cioè, casomai metti che l'antenna stia andando per qualche valordo motivo, l'onda stia interessando casomai qualche centrale vicino sul quale hanno fatto dei lavori dove ci sono dei cavi scoperti. Senti, io anch'io inizialmente ho pensato a questo. Infatti gli ho detto la prima cosa da fare è vedere un po' com'è la situazione di zona, prima di fare lavori e dartene delle colpe. Il fatto è che lui per il momento sta usando una radio che non può usare, si sa, no? E quindi la mia parola d'ordine è che ho detto a lui è stai attento, molto attento, capito? Sono molto attento, quindi sono prendi le dovute precauzioni, nel senso che sento un po' la signora, tienitela buona, vedi un po' cosa puoi fare, se hai necessità consultiamo qualche tecnico amico che ho della Telecom, non ci sono problemi, però cerca di non prendere la cosa di punta, ecco tutto qua, e per il momento io gli ho consigliato da parte mia di togliere quella radio e mettere il baracchino a pochi watt e vedere intanto se il problema sussiste ancora, perché se lui col baracchino normale a 5 watt, microfono normale, non disturba, allora il 440 mi sa che lo deve mettere a parte e vedere un pochino, perché purtroppo ne siamo un po' maniacali, no? Siamo maniacali, con tutto rispetto, io un po' mi sono parlato, bravissimo in tutto, però una volta che noi apriamo le radio e iniziamo a fare il bim bum bam, può darsi pure che nel sapere non sappiamo, e quindi sai, tocchiamo una cosettina che in quel momento non è fattibile fare, ed ecco lì che parte, si sgancia quel filo che era lì collegato, e allora parte l'armonica e ciccia alle braghe, capito? Quindi bisogna fare prima la prova con un baracchino o una radio normale che non sia stata pompadas come le nostre, e poi vedere un po', e poi vedere un po'. Io ad esempio qua a fianco nella burattina, io sono nella scala F, mi pare nella B, non lo so, cioè ragazzi intanto mi dice ehi sempre il baracchino, è io, è perché tu non fai sapere, perché la sento nella cassa il computer, c'è un bambino che ha il computer giovane, non mi interessa molto assoluto, non mi interessa proprio, capito? Entrare nelle casse del computer, entrare nel computer a me non mi riguarda, però non devo entrare nel telefono, sento il telefono allora mi preoccupo anch'io, tutto lì. Assolutamente, hai fatto bene a dirlo, perché è come hai detto tu, è come hai detto tu, le utenze telefoniche guai. Pensavo anche un'altra cosa, a volte nelle case vengono sistemati, spesso collegati anche alla Bell e Meglio, anche apparecchi cordless, non è che stanno facendo in pratica da convogliatori per la linea della signora qualche cordless che lei stessa ha dentro casa, gli ha chiesto questo. Sì, che usa il cordless, ha detto, cioè c'ha due cordless esattamente, sono due cordless di così vecchia maniera, però lui gli ha cambiato, gli ha messo anche il telefono tradizionale e gli entra lo stesso. Sì, ma gli altri cordless li ha attaccati, se no fanno da vettore. Certo, infatti come diceva diceva Salvatore Massimiliano, poteva essere qualche cordless che aveva qualche diodo da germanio dentro, ed era quello che gli faceva entrare la radiofrequenza, però lui li ha fatto attaccare tutti, gli ha messo due telefoni normali e anche con quelli entra. Ma sempre con quel P40? Sì. No, lui deve staccare il corpo 140 e mettere il baracchino a 5 volte col microfono normale, dopodiché deve fare la prova. Se lui non entra con il baracchino 5 volte come la legge prevede, il microfono normale, lui il corpo 40 se deve scordare. A meno che non lo rimetta come era. A meno che non lo rimetta come era, oppure viene qua, si prende il mio e trova il mio lì. Capito? Una radio similare delle mie e trova una di queste. Capito? Però lì il problema è provare con un baracchino, voglio dunque provare sempre con la stessa radio. La stessa cosa l'ho fatto Gianni, doppio room, quello 140 che ho io, come lui ha attaccato il 140 entrava dentro il telefono di una signora. Mi ha portato via il 140, ha messo il magnum, ha messo tantissime radio con potenza quanto il 140 e non entrava più. Quindi il problema può essere la radio. Sì, mi sa che hai toccato il posto dolente. A furia di abusare si corrono questi rischi, Io l'antenna non ha niente a che fare con le onde telefoniche, sono due pianeti diversi. Se parliamo di televisione, allora il discorso non ci piove. L'antenna ha una radiazione diversa, il serratore mi insegna che così, rispetto alle onde telefoniche, sono due pianeti completamente diversi. Non ha niente a che fare. Quindi per me, siccome lui usa praticamente la stessa linea di rete che usa la signora, perché sono, credo che siano lo stesso palazzo, sbaglio. Ma è la sua dirimpettaia. Però ti faccio una domanda prima che ti risponda. Tu radio al germanio non hai mai fatto, che sono poi le radio a cristallo di galena? No, a cristallo di qui è blu. Negativo, allora, sono delle radio semplici riceventi che sono composte da un avvolgimento in rame e da un cristallo, allora si utilizzava il cristallo di galena, adesso si utilizza un diodo al germanio. Basta che tu fai una semplice, non è un'induttanza, è proprio una bobina, un avvolgimento di rame, con uno di questi diodi, ci attacchi le cuffie e senti il Rai Stereo 1, figurati se c'è una emittente radio così vicina, basta che ci sia da qualche parte nel suo cavo telefonico un avvolgimento e lui si sta portando dentro tutta la trasmissione. Perché? Registrato, darci pure, però io rimando sempre del fatto che lui deve fare la prova con un baracchino. Nel momento in cui lui disturba anche col baracchino, allora la signora e lui si devono preoccupare della linea telefonica. Se però lui col baracchino non disturba tu, allora lui 440 deve staccare subito, immediatamente, perché se la signora perde le staffe, penso no, e me lo auguro per lui, ma se disgraziatamente quella signora perde le staffe, vuol dire che Fabrizio non è una persona che avesse provato a me, magari l'avrei fatto incazzare sicuramente, perché potevo andare incontro nel cercare di risolvere il problema, se il problema sussiste a me non mi ha tutti nulla, continuo a modulare. Poi Fabrizio viene di quelli, anche perché non è che è tutto il giorno attaccato alla radio, va bene, anche io entro la sera. Però se quella signora perde le staffe e si incazza e chiama la polizia postale, Fabrizio può tentare non prende più. Avanti, Beck. Ok, ciao qua. Ciao Grotte e Salvatore. Allora, io l'ho risolto in quel modo lì, quel discorso. A cambiando cavo di discesa, prima avevo il 58, adesso che ho l'RG8 e ho risolto il problema, perché sicuramente può essere perché il filo dell'antenna, la discesa dell'antenna magari passa sopra un cavo telefonico eccetera eccetera, o spostare la discesa da un'altra parte, oppure deve cercare di mettere un cavo più buono, a bassa perdita, insomma, capito qua. Ma per F38? No, c'è il 213, scusatemi, c'è il 213, quindi è possibile. Non parliamo di carro 213, che è un po' di un carro degli anni 70. Il primo carro che è uscito è il RG8, che dove ha cambiato casa costruttrice, anziché cambiare, cioè dovete capire una cosa, no? Che come l'antenna, la D5RV, che è un depot a 5 bande che Massimiliano conosce, ce l'abbiamo entrambi, è stata costruita, ideata, è venduta, la prende una, la dematore, quindi con la sigla, con la pressione di essere la DFB, lui l'ha chiamata D5RV perché è il suo nome nativo, punto. Quando è nato il 213, il carro 213, non era altro che l'RG8, perché i tre proprietari della fabbrica che facevano l'RG8 si chiamavano uno Romeo, l'altro Giovanni, ed erano tutti e due nati lo stesso giorno che era 8, okay? Quindi hanno chiamato il capo RG8. Il 213 è la stessa casa costruttrice del RG8, tanto è vero che i cambi sono uguali, precisi, identici. L'unico che supera l'RG8 è l'H1000, che è quello che ho io. Ok, quello è il nuovo cavo a calza doppia, con la gomma praticamente molto più robusta, e il centrale è rigido, non è a filetti. Ok? Ed è la stessa casa che prima si chiamava RG8, ed è nato, hanno fatto praticamente una fusione, non si sa che tutti ci sono in questa fabbrica, e l'hanno chiamato il cavo RG213. Quindi sono dei cavi che insomma lasciano molto a desiderare, sono cavi passati, sia l'RG8 che l'RG213, proprio passati, non perché devo rispettare chi ce l'ha, ma sono cavi passati. Il cavo che si usa oggi molto morbido, proprio morbido, e il mio sta in una carretta di plastica da 5 cm dentro, bello chiuso, mentre quello del 213 del RG8, il RG8 me l'aveva preso sparato perché non poteva attaccare un rosmetro che se lo portava appresso. Quindi l'unico cavo adesso è l'H1000, quando è nato adesso si chiama H100 ed è uguale all'RG213, stesso spessore, solo che un cavo a bassa perdita perché c'ha la calza anziché essere argentata. Anziché essere argentata è dorata, e il centrale io devo tagliare con la tenaglia, perché non ce la fai a tagliarlo con la pinza di quanto è grosso, tanto è veloce, uso due pinze a pappagallo per avvitare, uno per avere il cavo, uno avvitare il PL per fare una cosa fatta bene. Quindi non so se giù è fattibile questa cosa, lo fa dire la Fabrizia, ma tieni conto che Fabrizia è l'ultimo piano, ok? È l'ultimo piano, quindi non è che si sta appoggiando a casi di altre persone, telefonici o quant'altro. Io l'ho vista praticamente dall'antenna, entra direttamente dentro casa sua, quindi secondo me è un discorso di impianto telefonico, come dice Salvatore. Comunque non vuole essere polemico l'intervento, ma il 213 ha la calza dorata e il centrale in centrale a fili svizzeri, non a fili fini. Anti. Sembra che siano 3 o 2, no 3. La H100 ne ha uno, ancora più percorso di quei tre che sono il 113 al 3. Beh, tranquillo, riesco i carri, non ho barato spese, io ho 500 euro di carri, quindi ho preso due matasse da 100 metri di H100, capito? Due matasse da 100 metri, ho pagato 500 euro più il trasporto. Merita questo, quello che sto dicendo, non è il 213, non è, diciamo, per quanto vecchio, se l'hanno continuato a fabbricare, evidentemente non è esattamente un cavo da buttare via, non sto dicendo che sia eccesso e che non ci sia qualcosa di meglio, però strano è che comunque per la calata che ha, che è minima, si crea questo problema. Sì, ma scusate se posso, dovendo fare una ricerca a guasti, io andrei a concentrarmi nel recente passato, che cosa ho fatto di particolare che possa aver alterato uno stato, una certa situazione, che era una situazione di stabilità. Se lui fa un po' di mente locale, riesce a risalire a quegli elementi che possono servirgli per individuare che cos'è l'origine del problema. Quella signora li ha sempre avuti quegli apparati e non hanno mai dato problemi, se lui ha sempre modulato e non ha mai dato problemi, deve andare a ricercare qualcosa che è modificato nel frattempo. Questo sto cercando di focalizzare io, perché se l'antenna ce l'aveva prima e se le calate ce l'avevano prima, non possono questi cavi di colpo mettersi a muovere e andare a disturbare. E credo che sia più fattibile un intervento che ha fatto lui e che abbia alterato un certo equilibrio, anche se di poco, ma quel poco sta creando problemi. Poi c'è anche un altro particolare da tenere in considerazione, i filtri ADSL vogliono quelli originali di Telecom, non quelli comprati nei negozi così commerciali, eccetera, eccetera. L'altra osservazione che ha fatto Salvatore poc'anzi è anche il fatto del cordless, se non è un cordless Telecom può dare questi problemi, capito? Sì, immagino, perché prima questa signora questi problemi non ce li aveva. Non ce ne aveva perché lui non trasmetteva. Trasmetteva per baracchino. Questo non lo so come trasmette lui, però sicuramente se non trasmette non lo sente. Io parto dal principio che bisogna fare la prova per baracchino. È già successo a Gianni. Gianni ha acquistato con un grande desiderio il 140, al momento in cui lui ha prestato il 140 a casa sua, ha iniziato il problema della signora vicino, e se è in ascolto già ne può intervenire, la signora vicino questo è il discorso del... Io mi sarei concentrato un pochettino, intanto sull'apparecchiatura, prima cosa, che cosa ho cambiato, che cosa ho modificato, cosa ho toccato. Ma se non uso questa e ne uso un'altra, ha lo stesso effetto indotto? Perché qui stiamo parlando di effetto di induzione, chiaramente. Se l'effetto indotto ce l'ho lo stesso, allora intanto inizio ad escludere quello che è un problema derivato dagli apparati, perché se ne sto mettendo due completamente diversi o tre, quelli che ho a disposizione a bassissima potenza e vado a disturbare, allora posso permettermi di pensare a un'altra origine. Lavori condominiali, spostamento di canale, lavori di ristrutturazione nell'altra abitazione, eccetera, eccetera, eccetera. E poi quindi piano piano allargare il raggio d'azione di quella che potrebbe essere una variazione dello stato dei luoghi a questo punto. Però prima di arrivare a quello devo essere certo, perché è una cosa troppo, troppo importante proprio dal punto di vista proprio dei risvolti di natura amministrativa e penale che ci sono nel disturbo delle linee telefoniche. Quindi è fondamentale, è una cosa proprio assolutamente, credo che sia al primo posto questo, intanto fare una prova del genere e poi piano piano allargare. Però questi apparecchi mi sono reso conto che sono degli apparecchi che veramente bisogna dargli del lei, nel senso del massimo rispetto, perché sono un concentrato di così tanta tecnologia dentro che l'andare a toccare a volte dei punti può determinare una serie di effetti domino a catena i cui risvolti noi non li conosciamo perché non li abbiamo progettati noi, e per cui possono esserci un fuggi di armoniche o di altre onde completamente non più controllate che possono dare origine a dei problemi in questo caso al nostro vicino. Ah no, pensavo che alla fine lui morisse, no? No, non è un film, non è realtà. Comunque avvicinati per questo, il problema da risolvere, quindi io credo e spero che Fabrizio lo possa risolvere nel più breve tempo possibile e soprattutto con molta velocità, perché ribadisco, decreto legge delle telecomunicazioni varato proprio tempo fa parla molto chiaro, non nel modo più assoluto. Per noi radiomatori c'è il ritiro addirittura della licenza, perché non si possono assolutamente disturbare le linee telefoniche per mille motivi, uno perché le linee telefoniche oggi come oggi col sistema appunto ADSL stesso è collegato al computer, quindi è collegato a tutto quello che è il sistema operativo, quindi delle forze dell'ordine e di quant'altro, e poi per tantissime cose, quindi bisogna stare trovare proprio un baracchino, perché sicuramente lui magari ci ha messo caccia e vita dentro la 540, ha aperto e allargato l'armonica e le cose armoniche vanno a invadere altre frequenze, dunque il problema è solo quello. In effetti hai ragione tu, bisogna provare col baracchino, al limite lui quello deve mettere da parte effettivamente e utilizzare solo il baracchino di normale potenza. Poi volevo anche riallacciarmi al discorso che aveva così appena accennato Antonio Grodi. Grodi, dice sì. Ah, ma perdonami, dico anche una cosa, che è molto giusto quello che hai detto tu, nel senso, scusate il rumore del cellulare, hai detto una cosa giusta, nel senso che la telecom molto spesso ti mette una sola, un solo aggancio dentro casa, una sola presa, diciamo. L'altra presa, di solito, per risparmiare, per evitare ogni mese di trovartela in bolletta, te la fai fare da un elettricista, che molto spesso mette un cavo non adatto e quindi lì si può procurare questo problema. Te le prendi, Giulio? Ho pianto, sì, in effetti è così, cioè si tratta sempre soprattutto di cavi, devono essere schermati, perché anche la telecom ha la possibilità di mettere cavi schermati, dunque esenti da qualsiasi interferenza. Poc'anzi tu hai accennato anche alla radiovalena, perché sei interessato a fare la radiovalena? Ne costruisco ogni tanto qualcuna, però al posto di utilizzare, sai come veniva fatta, sicuramente tu l'avrai proprio utilizzato il cristallo di galena, adesso non si trovano più, si utilizzano i diodi al germano. Sì, un diodo, tu usi un diodo di radiofrequenza, basta che non sia un condensatore, e un condensatore variabile, una bobina d'antenna, l'alta frequenza e ti entra tranquillamente. Poi se hai qualche amplificatore a portata di mano lo puoi anche amplificare e lo utilizzi realmente come una radio normale. Io ce l'ho fatto da tanti anni, messo da parte qui, e riuscivo a prendere tre canali e tante volte, secondo i giorni anche quattro, e prendevo la RAI e poi prendevo anche Radio Monte Carlo. Capito? Un filo che si attacca al tubo così a massa, io lo attaccavo addirittura al rubinetto dell'acqua, perché allora dove abitavo prima c'erano i tubi famosi in metallo, a differenza di oggi magari che non, forse non va più bene, ma ci vuole sempre una massa. E poi un'altra cosa, e funzionava naturalmente senza corrente elettrica, né batteria né niente, così, solo con l'alta frequenza. Calma, ma infatti la cosa bella è vedere questa radio che è completamente passiva. Io poi ho comprato su internet, vendono queste cuffie che utilizzavano le vecchie telefoniste della Telecom, che sono ad alta impedenza, ad altissima impedenza, e che hanno, tu immaginati, quello che si poggia sulle orecchie, cioè la cuffia vera e propria, che è fatta in, come si chiama, quella plastica vecchia, che non si chiama, non è plastica, ma è... non ricordo il nome comunque, costano 15 euro, anche se sono molto vecchie, bacchilite sono. Io anche quelle io. Sì, ci vogliono delle cuffie ad alta impedenza, ad esempio 2000, perché se lo metti bassa non rischi di non ascoltare, capito? Dipende anche da dove ti trovi, perché è anche una questione di vicinanza al ripetitore, radio, eccetera, eccetera. Dunque, io sinceramente quando c'era quel ripetitore a San Giovanni e vicino quello dei punti, allora riuscivo addirittura a ricevere i segnali anche con una impedenza più bassa, anziché avere 2000 ohm, anche con molto meno riuscivo a, però ripeto, il ripetitore da San Giovanni, vi ricorderete che allora, e a proposito di quel ripetitore lì, mi ricordo che questo me l'aveva addirittura raccontato un amico che lavora alla Telecom, che la radio interferiva il telefono proprio lì nella linea San Giovanni. Allora la Telecom è intervenuta facendo una linea con un cavo fermato e da quel preciso istante è finito tutto, cioè tutte le interferenze. Già mi ricordo. Bei tempi. Vabbè, noi non abbiamo questo problema, è un salotto. Noi con la 440, cioè con le radio a sintonia continua, sull'ascoltare c'è problema. Vuoi ricoprire la radio, la partita, ascolti tutto, no? Non hai nessun problema, non ci bisogna costruire niente, vai sotto. Chiappa. Sì, comunque pensavo. Che accidenti, comunque c'è una bella testa, è una bella testa di natura proprio progettuale dietro queste radio, perché accidenti, cioè negli anni comunque riesci a vedere che in commercio comunque si spremono per tirarti fuori un prodotto comunque che ha qualche cosa comunque di più. E questo è positivo, questo è veramente positivo, certo ti alleggerisce la tasca, ma è veramente bello, bello. Vabbè, è chiaro che poi alla fine hai tutti questi vantaggi, no, ma comunque se andiamo in fondo è così, io, Giulio, perché ad esempio io quando qua, come ho detto poc'anzi, ero un po' di squadrami di pianto, la prima cosa che ho guardato è le prese. Ho detto la presa principale qual è la sua, ho detto quella del mio salone. La secondaria è quella della mia camera da letto, quindi ho una terza che ho fatto il conto io per usarla ed è quella della camera di mia figlia. Dicevo, dobbiamo rimettere tutto com'era. Usare la primaria per poter arrivare alla linea telefonica principale per poi prendere la linea ADSL, perché su linea secondaria ADSL non va bene, è disturbata, non c'è schermatura, quella non la faccio come corrisponde nella mia diretta la linea telefonica primaria e poi mi collegate al computer, così hanno fatto. Perché c'era una linea primaria che è quella del salone, per avere secondaria, quindi per squillare il telefono anche in camera da letto, hanno fatto un ponte, quindi la Telecom assieme a Fisker, che poi sono un'impresa esterna che lavora per Fisker, quindi lavora anche la Telecom, hanno tolto tutto, hanno messo la linea come era principalmente da Telecom, altrimenti non funzionava assolutamente niente. Quindi, come stavamo dicendo prima, molto probabilmente, come ha detto anche Antonio, il discorso di questa signora può essere fattibile a quello che abbiamo detto, quindi che lei abbia una linea primaria e usa la secondaria con qualche ponte, quindi fatto a culo di scimmia, e chiaramente riceve questi disturbi da parte di famiglie. Quindi la prima cosa da fare è verificare se la linea è in stato efficiente, quindi come era attualmente o inizialmente, dopodiché fare la prova col baracchino, se comunque il baracchino non disturba, allora questa cosa dovrebbe togliere, dovrebbe staccare momentaneamente in attesa che si sistemi un po' la situazione, perché vuol dire che quella radio c'è qualcosa che non va, non so, questo lo dovrà vedere lui, i consigli sono questi e lui deve fare partire con questa linea, controllo di linea telefonica se attualmente è in originale, se non è originale chiama la Telecom, fagli la mettere in originale, dopodiché lui deve fare per il baracchino. Di conseguenza anche con la radio grande, insomma, e poi vedere un po' avanti anche. Vale, Roger. Giù, ti volevo dire, ma tu eri riuscito a farle col cristallo di galena, perché si possono fare anche con una lametta e un pezzo di ferrite, non di ferrite, di grafite. Sì, ma quello lì è una cosa un po' più complicata, visto e considerato che esistono i diodi, quindi ci metti il diodo direttamente e hai risolto ogni problema, capito? Una bobina abbastanza grossa, io avevo usato un tubo di diametro da più o meno 3-4 centimetri, avevo raccolto un certo numero di spie, dopo un po' di spie facevo una presa e continuavo a fare spie, poi un'altra presa e così via. Dopodiché l'antenna l'ho attaccata nella spia più idonea, no? Perché devi trovare la lunghezza d'onda, devi trovare, perché la lunghezza d'onda, cioè la cordatura dell'antenna, ci deve essere anche in ricezione, non solamente in trasmissione, appunto questo come l'altro giorno stava spiegando anche Massimiliano, che bisogna che per entrare una determinata frequenza deve essere accordata su una determinata lunghezza d'onda, capito? E dunque bisogna fare quello, ecco per quale motivo ho fatto diverse prese, no? E la presa poi più idonea, mi sono fermato lì e sentivo, ripeto, tre stazioni e alle volte anche Radio Monte Carlo, quando Radio Monte Carlo magari riceveva un po' meglio, che ne so, probabilmente era così, capito? Senza 40 lì, cerca solamente con l'alta frequenza, funziona solo con l'alta frequenza, non con la bassa frequenza. Per la bassa frequenza poi ci vuole un trasformatore, cioè praticamente è la classica radio, è l'alta frequenza, poi viene amplificata con la bassa frequenza, cioè con l'amplificatore, che è tutto il seguito di una radio completa, capito? Infatti è quello che secondo me sta succedendo alla fine a casa di questa signora, perché alla fine questo segnale da come viene amplificato se lo ritrova in cuffia. Ma sicuramente, ma io non vorrei che avesse fatto l'errore lui di muovere le medie frequenze, perché se lui ha mosso la media frequenza allora comincia a essere un problema, perché quando si fanno questi lavori di allineamento, come dice Claudio, è giusto che si tocchino solo le resistenze, cioè i trimmer, che sono in realtà dei potenziometri, delle resistenze in pratica, no? E se tocchi le bobine allora sposta la frequenza, non vuol dire che lui abbia spostato ma la frequenza arrivando addirittura alla frequenza del telefono, ma chi lo sa, bisogna chiedere a lui cosa ha toccato nell'apparato, o al limite abbassa la LC, tutto lì, perché sono armoniche che arrivano, non è la radiofrequenza. E come ho detto io prima, di armoniche si tratta, lo ripeto, io non ho nessun vanto nei confronti di nessuno, per carità, me ne guarderei bene, ma l'unica cosa che io ho sempre fatto in questa radio, tanto per voler chiedere a lui dove era la parte della LC che ha toccato lui, perché io manco non ci sono mai andato, e l'unica cosa che vado a toccare in questa radio è leggermente la potenza. regolazioni ben precise che vengono fatte con degli strumenti non indifferenti, e dunque l'unica cosa che si può toccare sono i trimmer, che sono in realtà delle resistenze, potenziometri resistenze, perché anche potenziometro è una resistenza. Sì, ma detto questo, poi Antù, volevo dirti, se hai lo schema elettrico va bene, se no te lo posso fornire io lo schema elettrico per la radio Galena, Ma ti ringrazio, guarda, ne ho realizzato almeno 5 diverse, perché ti scarico su internet, ce ne sono a buttare, e sono abbastanza semplici, bisogna sapere come fare, ma poi anche sicuramente tu hai quello dove c'è la bobina da una parte, dopodiché i due capi che partono, su uno c'è la serra e sull'altro invece c'è l'antenna, dove c'è l'antenna dopodiché c'è il diodo e tutte e due vanno poi alle cuffie. Se non sbaglio poi ci dovrebbe essere una specie di resistenza variabile che va a toccare sulla bobina e è quello che poi ritorna sulla manica. Condensatore variabile, non resistenza, condensatore variabile per poter cercare le stazioni, perché se no se tu lo fai lo potresti fare anche con la stazione fissa, per dire ci metti solamente un condensatore per dire però ti prende solo esclusivamente una stazione, ma vai tu e pescala, mentre invece con un condensatore variabile tu non fai altro che girare come in una radio normale e cerchi la stazione, perché devi girare molto ma molto lentamente per captare il segnale, capito? Però ci vuole, ricordati sempre, ci vuole una buona massa e quello è fondamentale, e le cuffie che devono essere di almeno 2000 ohm di valore, se no non è che senti molto, capito? Quello me ne sono reso conto, soprattutto la massa, guarda, è più la massa dell'antenna, perché come tanti la massa, se non c'è una buona massa non si sente niente. Sì, sì, se non c'è la massa non senti assolutamente niente, è tutto lì, il discorso è tutto lì, capito? C'è una la differenza di potenziale tra segnale radio e massa, e appunto ti crea la possibilità di ascoltare diversamente, se no non sentiresti mai niente. Bello, perché cioè emozionante, perché senti il segnale che piano piano cresce, perché prima lo senti molto affievolito, ma proprio una fontina, finché proprio non lo senti bello chiaro. Posso? Sì, avanti. Volevo dire che a proposito del discorso delle masse, che spesso e volentieri è un particolare che viene sottovalutato molto. Rileggendo anche il manuale di istruzione dell'apparato, viene proprio, ad esempio, per quanto riguarda il mio, viene proprio evidenziato il fatto che è sempre opportuno avere una buona massa, perché comunque anche lo stesso apparato poi passa evidentemente qualche spuria di troppo, qualche corrente non controllata, o qualche cosa che è scappato, comunque riuscire a buttarlo via da qualche parte. Salvato, addirittura è l'antenna, per regola si dovrebbe mettere l'antenna anche a terra, come un impianto elettrico, in poche parole, solo che nessuno lo fa. Se uno una buona massa a terra nell'impianto elettrico, diciamo che potrebbe anche usare quella, capito? Però si dovrebbe come regola mettere un filo dall'antenna a massa, cioè a terra, capito? Io sì. Date una tiene QRX permesso in ascolto? Io sì. Sì, io sono, sai che cosa c'ho sulle antenne, sui pali delle antenne, sul tetto da me, dove c'è la qualificazione, quindi dove esce o dove entra perlomeno il cavo che poi va ai partitori degli appartamenti dell'antenna TV, arriva da sotto, quindi a terra. collegata al muro con le 28 fenestranti dell'isola Provimbatilite, che deve essere isolata dal muro, dopodiché da ogni radio, quindi dal 440, dal 430, dal 140, dal 680 e così via, dal 950 eccetera, ci sono i giallo-verdi che vanno tutti con l'occhiello attaccati a questa barra di rame, perché la barra di rame è tutta flatta, e ci sono gli occhielli radio per radio, come da manuale, quindi io penso che i microfoni non fischiano, la mia massa è perfetta, qualsiasi cosa va a scaricare sulla barra di rame, qualsiasi cosa, tutti appoggi. Io ad esempio sono stato poco a casa di una persona, mi sono appoggiato ad una radio che ha chiamato la scorsa, ho detto, ma quella è la scorsa sta radio, ma cosa ne so io, cosa ne so io? Ho guardato lì, ma perché non c'è il cavetto di massa? E dove l'attacco? Posso dire, tanto siamo a metà, non dici, l'ho risposto, te l'attacchi a culo, fai qualcosa ma la devi attaccare, le masse sono molto importanti, vedi che questa radio sta scaricando sulla radio stessa, sulla cassa della radio, non devo darti la scossa, toccavo il microfono e ti davo la scossa, ma a patto sì, allora le ho preso, siamo usciti, siamo andati da Losa, ho preso una barretta di rame di quelli che si usa per saldare, siamo andati in officina da me, gliel'ho tutta forata, gliel'ho fatto pure alla mia, gli ho fatto tutti gli spezzoni da 60 cm a 90, da un metro, perché ne aveva diverse di radio, tutte spostate, gliel'ho tutte bollate, lui ho appoggiato la radio, non va più la scossa lì, non va più la scossa perché sta scaricando sulla barra di rame, e non è possibile che non ci arriva nessuno a queste cose. Cioè tu senti persone che hanno una radio eccezionale, vanno ad aumentare il microfono e fischia, perché fischia quello dentro di RF, vuol dire che la radio è carica di RF, quindi non sta scaricando la massa da nessuna parte, se la tiene all'interno, al momento in cui tu le dai più volume di modulazione, è chiaro che lei ti dice, oh, vedi io sto scoppiandomi, hai zitta, abbassa. È normale, le masse ci vogliono, Salvatore, sono d'accordo con te. Assolutamente, tu infatti pensa che io sto cercando e studierò comunque un metodo e capiterà il giorno che sali su con me nel terrazzo e te lo faccio vedere, proprio per mettere, come diceva appunto anche Giulio, un tutto per bene a massa l'antenna, perché lo vorrei fare, perché è una cosa troppo importante, infatti io la prima cosa che ho fatto qua, attaccata alla radio, è stata quella di andarmi a comprare il cavo grosso per le masse e trovare un sistema di attaccarla a una struttura di ferro per scaricare, perché è tutto radio, è tutto correnti, è un concentrato di mille correnti, devi dargli la possibilità di sfogare da qualche parte. Sì, sono d'accordo su questo modo di fare, perché penso che sia giusto e penso che serva anche a conservare nel tempo le corrette funzionalità della radio, perché il progetto iniziale richiede questi accorgimenti e poi guai non metterli, secondo me c'è proprio solo da rimetterci nella qualità che inizia a degradare dell'apparato stesso. Io penso sinceramente questo. Giulio. Sì, non più che così, cioè una regola di mestiere si deve fare da massa a terra in tutte le antenne, non solamente nell'antenna trasmittente, ma anche nell'antenna TV. Il motivo per cui qual è? È perché quando c'è la massa a terra, i fulmini scaricano a terra, e quello è importante in caso di temporale, eccetera, eccetera. Sì, sono oggi le antenne di trasmissione, sono praticamente quasi tutti cortocircuitati, però se c'è una massa a terra sono ancora più efficienti, tutto lì, niente di più, capito? Poi per quanto riguarda riguarda il discorso della scorsa, come ha detto Claudio, risolvi il problema con lo scaricare a terra. Lo possiamo fare anche invertendo la spina, invertendo la polarità della spina. Dunque anche in quel caso lì la scorsa non l'avrebbe più sentita, evidentemente quella persona non era molto, molto pratica di corrente lì, capito qua? Io so, però io vengo qua e visto che cosa ho fatto, e quindi ho fatto il lavoro come deve essere fatto, cioè io non posso mettere due o tre ciabatte in terra, collegare tutte le prese lì e via, è tutto a posto, non è così che si lavora. Ci vuole una salvavita, ci vuole una pressione giusta per poter garantire l'alimentazione efficiente degli alimentatori, alle radio stesse, e allo stesso tempo avere un buon piano di massa, poi tutto in legno, tutto fatto in ordine, eccetera, però io ho tutte le masse attaccate alle radio, ripeto, curva, barra e rame, tassellate al mondo dove tutti i tabletti salvavetti vanno a scaricare su questa barra di rame, capito? Senza poi l'impianto che è stato fatto a norma, perché io ultimamente, come sapete, quando si fa l'atto di una casa, il notaio ti chiede la certificazione dell'impianto elettrico e di tutto, e quindi mi sono rivolto ad una società che mi ha fatto il certificato di quello, adesso mi ricordo, c'è un nome specifico, c'è una cartella, comunque quello, e quando è venuto qua ho controllato tutto, e anche qua nella sala d'aria ho detto, ma qua come organizzato questo impianto, e così, così, così, ha controllato tutto, ha visto tutto, ha scritto, ha fatto, non era un esito positivo, infatti mi ha chiesto come, ma non è stato autocertificato, ho detto, basta, l'ho fatto io, questo è fatto da me, e quindi io non devo garantire autocertificazione a nessuno, se non che a me stesso, e quindi lui l'ha visto, l'ha sottolineato e ha detto che va bene così, ma c'è salvavita, c'è tutto, quindi non è che uno può accendere una radio, ecco, quando c'è un baracchino, ho messo lì nel comodino, accendere il metatore e trasmetti, sia la linea diretta, ma quando cominci a avere, che io a volte, credetemi, risposta faccio come mi è successo ultimamente, perché stavo facendo dei cambiamenti, a un certo punto mi sono inceppato, stavo prendendo un carro per l'altro, perché sono quasi tutti uguali i carri di alimentazione, quindi stavo un po' impazzendo, cioè ce ne sono tanti carri qua, bisogna stare attenti, c'è tensione, quindi bisogna fare cose regolate. La massa è la prima cosa, l'antenna è all'interno della casa, proprio per non avere niente di RF, rotture di scatole, interferenze, balle varie, soprattutto con il microfono. Quando già si supera una certa preamplificazione, senti fischiare, cioè il microfono fischia, attento, non è il microfono che sta fischiando, oppure il microfono, se è scarso di massa, non vedo dove va, perché io ho dimostrato Antonio qua a Falchetto, quando abbiamo risolto il problema del suo microfono, dice fischia, non si può, no, tu a legare il nuovo, quindi i nuovi, e quando fischiava andava bene, anche da lui lì c'erano dei fili che erano un po' incasinati, tra alimentazione radio, alimentazione microfono, eccetera, la batteria non isolata, è molto importante isolare la batteria all'interno del microfono, perché Sicuramente sì, infatti è così, da voi fate bene, ci vogliono, non si può fare le cose così alla carlona, solo per dire già va bene, no, non va bene proprio per niente, bisogna prendere tutti i provvedimenti necessari, perché con la caratteristica non si scherza, perché a parte il discorso sicurezza della persona stessa, ma anche delle apparecchiature, perché ci vuole poco, ci vuole un contatto, una cosa, un corso circuito ti brucia magari un apparecchio che costa una banca di soldi, il problema è quello, però qua non sono tutti preparati, allora la gente pensa di fare bene e tira a campare, tu lo fai, io lo faccio, Salvatore lo fa e gli altri lo fanno, il discorso è questo, capito? Riprendi Salvatore. Cappa, è che molto spesso io mi sono accorto che per la fretta si danno per scontate una serie di cose e a volte anche quello che può essere un libretto di istruzioni semplice da poter leggere in 40 secondi viene saltato e spesso e volentieri la soluzione di eventuali problemi che dopo non sappiamo come affrontare o quali erano i motivi. Probabilmente ci saremmo anche potuti risparmiare leggendo quei 40 secondi di istruzioni che avevamo dato per scontato. Le cose se sono state pensate per funzionare in una certa maniera con determinate caratteristiche, a volte siamo troppo intraprendenti nel cercare di semplificare troppo alcuni passaggi e a fuori di semplificare ci dimentichiamo qualcosa che poi è anche un'essenza per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura stessa, nel nostro caso delle radio, senza contare poi che con le modulazioni, con i passaggi lunghi, con l'apparecchio che va a scaldare la radio stessa non è una radio che è statica da un punto di vista del suo funzionamento, ma continua ad adattare tutta quanta la sua componentistica anche con l'innalzamento delle temperature stesse, dei continui sali e scendi di temperatura. Questo essere vivo della radio chiaramente deve avere dei controllori che a volte sono i controllori più semplici della massa, in questo caso, che servono per cercare di recuperare quanta, diciamo, mondezza tra virgolette viene lasciata dall'apparecchiatura stessa in giro, così dispersa, ed è bene tenerne conto nella giusta considerazione. Certamente, ma tutto bisogna tenere in grande considerazione anche le minime cose, perché sennò non si può lavorare così, ripeto, alla carlona, nella maniera più assoluta. Va bene, dai. Adesso vi saluto, che è tardi, mezzanotte, dunque ci sentiamo alle prossime. Ciao Claudio, Salvatore e Antonio, buonanotte a tutti, riprendi Antonio se è rientrato oppure riprendi tu Claudio. Intendo io allora. Ciao Giulio, buonanotte, alle prossime, ci ascoltiamo. Grazie del tuo intervento. Sì, Salvatore, sono cose che. Anzi, aspetta, saluta Giulio. Cappa, grazie. Grazie Giulio del Questeo. Sei sempre stato un solito gentile e preciso nelle tue considerazioni. Buon tutto e buonanotte a questo punto, perché mi sa che non te ne andrai in giro a ballare. No, assolutamente no, nella maniera più assoluta. Ad esempio, infatti io, vabbè, non me la sono ricordata nemmeno, anche ieri se l'ho vista Fabrizio, potevo anche chiedergli informazioni sul problema che lui si è lamentato, che ha un QRM altissimo nell'apparecchio. Ma io ho detto, ma hai controllato lo stadio finale, che non ci sia qualche, cioè le vorrei dire, non è che ve l'ho detto perché non me la sono ricordata, hai controllato che nello stadio finale non ci sia qualche transistor rumoroso, perché il discorso di un altissimo rumore di fondo, cioè di può essere anche quello che magari qualche transistor possa essere troppo rumoroso a quel punto lì, anche se funzionante sia ben chiaro, però è tanto magari che so io è stato o trattato male oppure si è rovinato da sé, può succedere che un transistor ti possa creare un rumore di fondo molto ma molto alto. Va bene, con questo vi saluto, buonanotte e vi ascolto ancora fin quando ci sarete, dopodiché chiudo io adesso, ciao. Ciao Giulio, ciao, buonanotte, via, non vi fondo. Ma non lo so perché, per mille motivi. Mille motivi che sono portati a tantissime cose che tu ben conosci. Io ripeto, per poter fare allineamenti e toccare le radio ci vogliono gli strumenti, quindi secondo il mio punto di vista, così, io penso che lui, nel momento in cui si è messo a tirare a fare, ha portato su anche un po' la ricezione, sicuramente. E quindi niente, non lo so, comunque la radio sua è abbastanza preparata in materia, quindi vedrà lui che cosa fare. Io l'unico consiglio che gli ho dato è quello di iniziare a vedere intanto l'impianto, vedere come è sistemata questa signora, dopodiché mettersi una mano in tasca e chiamare un tecnico veramente bravo e farle fare i controlli dovuti sulle prese, sulla linea, se cavi all'interno della linea telefonica sono schermati eccetera, se c'è qualcosa che non va bene. Quindi, dopodiché fare la prova con un baracchino normale e vedere se il disturbo è ancora presente, altrimenti su quella radio c'è sicuramente qualche armonica che gli è sfuggita. Altre cose non ce ne possono essere perché io uso le radio tengo da oltre 20 anni e non ho mai avuto nessun problema. E vi giuro che ne ho fatto tante, ma tante, tante, non solo a me, a tantissime altre persone, fatte da me, non ho mai avuto un problema. Perché non vado a toccare altro che i trimmer che ci sono per poter dare un 20 watt in più, 30 watt in più, dandole poi dal modulometro il picco di modulazione che compensa praticamente il watt, senza toccare altro. Se vai a toccare una media frequenza sei fregato perché a voi che non hai più la capacità, la sensibilità di capire, vedere e metterlo in linea, se non con un adattatore di spettro, con un oscilloscopio. Non c'è niente da fare, questo è il mio parere, non cambierò mai e continuerò sempre a dire le stesse cose. Siamo tutti bravi, preparati, però senza gli strumenti non siamo niente. Sì, senza gli strumenti, soprattutto devi avere gli schemi. Schemi, perché tu devi anche riuscire a fare i controlli esattamente nei punti dove devono essere fatti. Io per carità ammiro tantissimo tutte queste persone che riescono armeggiare, che non vuole essere dispregiativo, è un termine per indicare una voglia di fare e di provare ad andare oltre quello che è il prodotto uscito dalla fabbrica. Però io non mi sento, ecco, un boy scout sotto questo punto di vista, perché non avrei la minima idea intanto di dove andare a toccare. E poi ho un concetto tutto mio, che è quello che sto acquistando una cosa, la sto acquistando con quelle determinate caratteristiche. Il giorno che quelle caratteristiche non mi soddisferanno più, passerò a un altro prodotto. Preferisco avere la certezza che quel prodotto casomai sia degradato nel tempo, proprio perché l'ho sfondato dall'uso, piuttosto che da un traguardo raggiunto. del mio maldestro armeggio. Sì, ma sono d'accordo con te, Salvatore. Sono d'accordissimo con te. Io, se lo vedi, sono presenti soprattutto. Mi adiro quando si fanno cose che, ma non perché uno lo sappia fare, per carità di Dio, non è che io sono superiore a nessuno, è che io ho una mia linea, cioè quando capita qualcuno dice camera mi dai un pochino più di watt, mi dai un pochino più di potenza microfonica al 104, che importano, te lo faccio perché non ho bisogno di schema, so che devo toccare quelle due cose per esperienza, e tocco solo quelle due cose perché so che la radio ha bisogno di quello, basta, finito. Non devo andare a toccare altre cose che non mi riguardano. Devo dare 10 watt in più e portare quei 10 watt a un picco del 10%. Non posso dare 10 watt e portare il picco al 50%, no. Il picco di numerazione quindi deve essere in base ai watt che tu dai. E lì non si sfugge. Finito, non stai aumentando niente di più. Ma quando tu dai una 500 vuoi metterci un motore della Ferrari, no, non puoi farlo. Non puoi farlo per mille motivi, tanto vero che io qualche giorno fa mi sono permesso di dire a Fabrizio che la cosa che ho fatto non andava assolutamente bene, ma io me ne sono accorto che non va bene perché siamo vicini. E questo non sussiste con Antonello che usa 50 watt a 150 metri di distanza. Non abbiamo problemi, lui era completamente incomprensibile qua, capito? Ma addirittura per non creare problemi ho acceso un 150 che ha dei filtri allucinanti, stretti e larghi, addirittura col filtro stretto non riuscivo a capirlo proprio. Ho dovuto mettere l'ultimo filtro AM, proprio quello largo, per poter capire quello che stava dicendo. Cioè sono entrato con la radio normale e gli ho detto quello che pensavo. E quindi lui l'ha riportato allo stato, che non so se è al 100% o l'ha portato ancora diversamente, ma cioè, il fatto è che lì ci sono delle cose fatte che sono state fatte senza strumentazione, quindi probabile pure, senza per carità offendere nessuno, che gli sia sfuggito qualcosa di mano. E quindi la prova secondo me da fare è provare con il baracchino, dopodiché se col baracchino lui mi disturba, allora già sappiamo che non è un problema di linea telefonica, ma invece un problema di radio, come è già successo ad altre persone. Capito tutto qua. Perciò, come hai detto tu giustamente, io ribadisco sempre che gli allenamenti e i lavori si fanno con gli strumenti. Io e Massimiliano ci conosciamo da tantissimo tempo, abbiamo, diciamo, vissuto lo stesso periodo iniziale come radioamatori con licenza speciale, che era perché stai andando ad occhio e a orecchio, non hai neanche più la possibilità di rimetterli come erano prima. Non hai proprio più la possibilità. Che poi, vedi, nel caso proprio di questo apparato, il discorso della potenza, vedi, io ho capito e ho colto quando tu parlavi del passaggio a un MOSFET, quello ha un senso. Certamente per dargli 4-5 watt me ne taglio prima i cosiddetti, perché non ha senso. O cercare di spingere qualcosa quando con il mio Mickey Gain che mi avete detto che mi ascoltate bene, lo sto tenendo a 1,5, hai voglia di continuare eventuale ad avere margine per un setup migliore. Queste radio credo che abbiano delle performance eccezionali, però bisogna dargli, ecco, delle lei e cercare di utilizzarle per quello che sono senza provare a ingannarle con dei sotterfugi che poi alla fine rischiano di essere controproducenti per noi stessi. No, ma il lavoro che ha fatto Fabri è per me troppo fuori sintonia, intanto perché lui è andato a toccare la parte che riguarda la modulazione, lì ci sono tre fasi che lui è andato a toccare, quindi c'è sicuramente qualcosa che gli è sfuggito di mano, c'è qualcosa, anche perché la parte FM non è adesso domani mi guarda un buco, c'è un bel venticello, si sente fuori, e ci aggiorniamo domani. Grazie delle due chiacchiere, saluto anche Antonio se fosse in stand-by, Giulio Dollaro, che sicuramente sta ancora ascoltando, chiunque stia ascoltando sul canale 10. Buonanotte a tutti, Claudio Spagliero, QRTS KCL. Grazie a te della chiacchierata, piacevole come sempre, e grazie a tutti quanti gli amici comunque che hanno partecipato. Ci risentiamo sicuramente, dai, o domani o quando sarà, già prima o poi coincide, penso proprio che coinciderà. Ok, salutoni, grazie di tutto e buon tutto per domani, class. Grazie a te, come sempre, ci aggiorniamo domani, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte. Oggi grazie a te, ciao, buonanotte a tutti. Oggi buonanotte.